Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Sebbene Helen passasse a sua madre tutto il suo stipendio meno $4 e lo stipendio finisse nel registratore con gli altri incassi, erano sempre a corto di soldi per le spese. Un giorno Frank pensò di procurarsi un po' di denaro facendosi pagare un vecchio conto da Carl, l'imbianchino svedese. Sapeva che l'imbianchino doveva a Morris più di $70. Quella sera tornò in quel malandato edificio a 4 piani e salì la scala scricchiolante fino all'ultimo piano. Una donna magra, coi capelli scuri, aprì la porta con aria stanca. Frank la giudicò vecchia finché i suoi occhi non si furono abituati al suo aspetto. Allora si accorse che era giovane, che sembrava soltanto vecchia. «È lei la moglie di Carr?» «Sì». «Potrei parlargli?» «Per un lavoro?» chiese la donna piena di speranza. «No, per un'altra faccenda». Lei tornò a sembrar vecchia. «Non lavoro da mesi, voglio solo parlargli». Lo fece entrare in una grande stanza che fungeva insieme di cucina e soggiorno. I due ambienti erano separati da una tenda non tirata. In mezzo al soggiorno c'era una puzzolente stufa a nafta. L'odore della stufa si mescolava con l'odore acre dei cavoli che stavano cuocendo. Nella stanza i 4 figli, un maschio di circa 12 anni e 3 femmine più giovani, erano intenti a disegnare, a ritagliare e a incollare carta. Alzarono gli occhi su Frank, ma continuarono a lavorare in silenzio. La moglie di Carl mise un coperchio sulla padella sfrigolante e andò in camera da letto. Tornò e disse che il marito dormiva. «Aspetterò un po'», disse Frank. Lei tornò alla sua padella. La più grande delle bambine apparecchiò la tavola e tutti si sedettero a cena. Il puzzo del fornello aveva fatto venire a Frank un forte mal di testa. «Vedrò Carl un'altra volta», disse. La saliva gli sapeva di ottone. «Mi spiace che non si sia svegliato». Frank tornò in negozio. Sotto il materasso del letto aveva nascosto gli ultimi $3. Li prese e si diresse di nuovo verso la casa di Carl. Ma per strada incontrò Ward Minogue col viso giallo e contratto, come uno scappato dalla camera ardente. «Ti stavo cercando», disse Ward. Tirò fuori da un sacchetto di carta il revolver di Frank. «Quanto saresti disposto a dare per questo?» «Un cazzo!» «Sto male», singhiozzò Ward. Frank gli diede i $3 e più tardi buttò la pistola in una fogna. Lesse una breve storia degli ebrei. Molte volte aveva visto il libro in una scaffale della biblioteca e non l'aveva mai preso, ma un giorno se lo fece dare per soddisfare la propria curiosità. La prima parte la lesse con interesse, ma dopo le crociate e l'inquisizione, quando gli ebrei se la passavano male, dovette fare uno sforzo per seguitare a leggere. Diede solo un'occhiata ai capitoli più sanguinosi, ma indugiò su quelli che parlavano della civiltà ebraica e delle conquiste degli ebrei. Lesse anche dei ghetti, nei quali i reclusi, con la barba incolta, mezzi morti di fame, passavano la vita a cercare di spiegarsi perché erano il popolo eletto. Anche Frank cercò di rispondere a quella domanda, ma non ci riuscì. Non fu capace di finire il libro e lo riportò in biblioteca. A volte di sera andava a spiare i norvegesi. Girava l'angolo senza il grembiule indosso e si metteva sulla soglia del negozio di Saint-Père guardando il loro negozio dall'altra parte della strada. La vetrina era piena d'ogni sorta di barattoli luccicanti. L'interno era illuminato a giorno, gli scaffali traboccavano di cibi appetitosi che gli facevano venir fame. E c'erano sempre clienti, mentre il suo negozio di solito era vuoto. Qualche volta, dopo che i due soci avevano chiuso e se n'erano andati a casa, Frank attraversava la strada e spiava dalla vetrina nel negozio buio, come se da quello che vedeva potesse imparare il segreto della fortuna e cambiare così la propria sorte e la propria esistenza. Una sera, dopo aver chiuso il negozio, fece una lunga camminata ed entrò nel Coffee Pot, un locale aperto di notte dove era già stato un paio di volte. Chiese al padrone se non aveva bisogno di qualcuno per il lavoro notturno. «Ho bisogno di uno che serva al banco, faccia il caffè e lavi i pochi piatti che ci sono», rispose quello. «Sono l'uomo che fa per lei», disse Frank. «C'era da lavorare dalle 10 alle 6 del mattino e il salario era di $35 la settimana. Rincasando al mattino, Frank aprì il negozio. Dopo una settimana di lavoro, mise i $35 nella cassa senza registrarli. Questa somma e lo stipendio di Helen bastavano a evitare il fallimento. Durante la giornata il commesso dormiva sul divano nel retro. Aveva installato una suoneria che lo svegliava quando entrava un cliente. Non pativa per mancanza di sonno. Viveva nella sua prigione in un'atmosfera di rimpianto per aver fatto di una cosa buona una cattiva. E questo pensiero, pur non essendo nuovo, rinfocolava la sua pena. Faceva dei brutti sogni, tutti ambientati di notte nel parco. Aveva nelle narici l'odore di immondizia. Bandiva da sé l'immagine della propria vita e la sua bocca era piena di parole che non poteva pronunciare. Al mattino, dalla vetrina, vedeva Helen avviarsi al lavoro e l'aspettava al ritorno. Lei veniva verso la porta, le gambe leggermente arcuate, lo sguardo a terra cieca alla sua presenza. Un milione di cose da dire, alcune delle quali straordinarie, affioravano in lui, gli stringevano la gola e ogni giorno morivano. Pensava sempre alla fuga, ma sarebbe stato un ripetere ciò che aveva sempre fatto alla fine, svignarsela. Stavolta sarebbe rimasto. L'avrebbero portato fuori in una cassa di legno. Se fossero crollati i muri, l'avrebbero tirato fuori dalle macerie con le pale. Una volta, in cantina, trovò un asse di pino di circa mezzo metro per uno. Ne segò un grosso pezzo e con un coltello a serramanico prese a intagliarlo. Con suo stupore, esso prese la forma di un uccello in volo, mal proporzionato, ma di una certa bellezza. Pensò di offrirlo a Helen, ma gli pareva una cosa troppo rozza, la prima che avesse mai fatto. Così cercò di fare qualcos'altro. Si mise a intagliare un fiore e ne venne fuori una rosa in boccio. Una volta finita, si rivelò un oggetto grazioso, coi petali che si stavano schiudendo, ma restavano fermi proprio come i petali di un fiore. Pensò di dipingerla di rosso e di regalargliela, ma poi decise di lasciarla com'era. Avvolse il fiore di legno in un foglio di carta da pacchi, ci scrisse a stampatello il nome di Helen e qualche minuto prima che lei rincasasse dal lavoro, legò l'involto sopra la cassetta della posta in ingresso. La vide entrare e l'udì salire le scale. Guardò in ingresso e vide che aveva preso il suo fiore. Il fiore di legno ricordò a Helen la sua infelicità. Viveva detestandosi per essersi innamorata del commesso, nonostante tutto il suo buonsenso. Si era innamorata, pensava, per sfuggire alla sua situazione. Più che mai si sentiva vittima delle circostanze. Le pareva di vivere in un brutto sogno, simboleggiato dal negozio di sotto, simile a un incubo, e dall'assidua subdola presenza del commesso, che lei avrebbe dovuto cacciare di casa e che invece aveva egoisticamente risparmiato. Il mattino dopo, versando un secchio di spazzatura nella pattumiera sul bordo del marciapiede, Frank scorse in cima alle immondizie il suo fiore di legno. Il giorno stesso in cui era tornato dall'ospedale, Morris aveva sentito una gran voglia di infilarsi i pantaloni e di scendere in negozio, ma il dottore, dopo avergli auscultato i polmoni e picchiato con le nocche pelose sul magro torace, gli aveva detto: «Andiamo bene, perché tutta questa fretta?» In privato, però, aveva detto a Ida: «Deve osservare un periodo di assoluto riposo». Vedendo la sua espressione di paura, aveva spiegato: «A 60 anni non è come a 16. Morris aveva discusso un po', ma poi si era messo a letto e da quel momento non gli era importato più nulla di scendere in negozio. Si riprendeva con lentezza. Una mattina, mentre scorreva il giornale del giorno prima, appoggiato al cuscino, si sentì così infelice che il sudore prese a scorrergli e il cuore cominciò a battergli disperatamente. Buttò via le coperte, scese curvo dal letto e si mise a vestirsi di furia. Ida si precipitò in camera. «Cosa fai, Morris? Malato come sei?» «Devo andar giù.» «Che bisogno c'è di te giù? Non c'è niente da fare. Riposa ancora un po'.» Gli venne un gran desiderio di rimettersi a letto e di rimanerci, ma non riuscì a calmare la propria ansia. «Devo andar giù!» Ida lo scongiurò di non farlo, ma Morris non le diede retta. «Quanto incassa adesso?» domandò stringendosi la cinghia dei pantaloni. «Una sciocchezza. $75 forse. Alla settimana? Ogni quanto vorresti?» Era terribile, ma aveva temuto peggio. La testa gli ronzava a furia di progetti per salvare il negozio. Una volta giù, pensava di poter fare andare meglio le cose. La sua paura nasceva dall'essere dov'era e non là dove la sua presenza era necessaria. «Tiene aperto tutto il giorno? Da mattina a sera. Non so perché.» «Perché resta?» chiese con uno scatto di irritazione. «Resta.» Ida si strinse nelle spalle. «Quanto lo paghi?» «Niente. Dice che non vuole essere pagato.» «E allora cosa vuole? Succhiarmi il sangue?» «Dice che vuole aiutarti.» Morris borbottò tra sé qualcosa. «Lo tieni d'occhio ogni tanto?» «Perché dovrei tenerlo d'occhio?» si preoccupò Ida. «Ti ha rubato qualche cosa?» «Non lo voglio più tra i piedi. Non lo voglio vicino a Helen.» «Helen non gli parla.» fissò Ida. «Cos'è successo?» «Domanda a lei. Cos'è successo con Ned?» «È come te. Non mi dice niente.» «Deve andarsene oggi. Non lo voglio più tra i piedi.» «Morris», disse Ida esitante, «t'ha dato un bel aiuto, credimi. Tienilo un'altra settimana, finché non ti sentirai meglio.» «No.» Si abbottonò il golf e, nonostante le preghiere di Ida, scese le scale vacillando. Frank l'udì arrivare e si sentì gelare. Da settimane aspettava con paura il momento in cui il droghiere avrebbe lasciato il letto, pur augurandosi d'altro canto stranamente che venisse presto. Per ore si era inutilmente arrovellato per imbastire una storia capace di placare la collera di Morris ed indurlo a tenerlo in negozio. Il commesso si rendeva conto di non possedere nessun argomento valido per appellarsi al negoziante. Si rendeva conto di aver ormai esaurito la riserva di fiducia che il vecchio aveva in lui. Ma poi gli balenò un'idea curiosa ed eccitante. Un asso nella manica che, proprio perché impossibile, avrebbe potuto dimostrarsi efficace. Pensò che se avesse finalmente confessato a Morris la parte che aveva avuto nella rapina, col suo racconto avrebbe permesso al negoziante di comprendere veramente il suo animo e di provare simpatia per il grande sforzo che aveva fatto per liberarsi del suo passato. Frank stava al banco, accanto alla cassa, intento a tagliarsi le unghie col temperino, quando Morris, pallido, col viso floscio, il collo che gli nuotava nel colletto della camicia e un'espressione poco benevola negli occhi scuri, entrò in negozio dalla porta dell'atrio. Il commesso si toccò il berretto e si scostò dalla cassa. «Lieto di rivederla, Morris», disse, rimpiangendo di non essere mai salito una volta a fargli visita in tutto il tempo che era stato a letto. Morris fece un freddo cenno col capo e andò nel retro. Frank lo seguì, si piegò su un ginocchio e accese il calorifero. «Fa piuttosto freddo qui, è meglio che accenda. Tenevo spento per risparmiare sul conto del gas». «Frank», disse Morris con fermezza, «ti ringrazio di avermi aiutato quando respirai tutto quel gas nei polmoni e anche di aver tenuto aperto il negozio mentre ero ammalato. Ma ora devi andartene». «Morris», rispose Frank col cuore oppresso, «giuro che non ho rubato neanche un soldo dall'ultima volta. Che Dio mi faccia cadere secco se non è la verità. Non è per quello che voglio che te ne vada». «E allora perché?» chiese il commesso arrossendo. «Lo sai». Il droghiere teneva gli occhi a terra. «Morris», disse alla fine Frank agonizzando, «ho qualcosa di importante da dirle. Ho cercato di dirglielo prima, ma mi mancava il coraggio. Morris, non mi rimproveri adesso per quello che ho fatto una volta, perché adesso sono un altro uomo. Ma io sono uno dei due che la rapinarono quella sera. Giuro su Dio che non volevo, una volta messo piede qui, ma non potevo tirarmi indietro. Ho cercato di dirglielo. Ecco perché la prima cosa che feci fu di tornare qui e alla prima occasione rimisi i soldi in cassa, ma non avevo abbastanza fegato. Non potevo guardarla negli occhi. Anche adesso mi sento male a dire queste cose, ma gliele dico perché lei sappia quanto ho sofferto per quello che ho fatto e che mi dispiace molto che lei sia stato ferito in testa, anche se non fui io a ferirla. Quello che lei deve capire è che non sono più la stessa persona. Posso sembrarle così, ma se potesse vedere quel che mi è passato nell'animo, capirebbe che sono cambiato. Adesso può aver fiducia in me, glielo giuro, ed è per questo che le chiedo di lasciarmi rimanere». Detto questo, il commesso ebbe per un attimo una straordinaria sensazione di sollievo. Degli uccelli sul ramo si misero a cantare, ma il canto cessò quando Morris, con gli occhi gravi, disse: «Lo sapevo già, non mi dici nulla di nuovo». «Come lo sa?» gemette il commesso. «L'ho capito quando stavo di sopra al letto. Una volta feci un brutto sogno. Sognai che tu mi stavi facendo del male e così mi ricordai». «Ma io non le ho fatto del male», proruppe il commesso agitato. «Io le diedi il bicchier d'acqua, si ricorda?» «Mi ricordo. Ricordo le tue mani e i tuoi occhi. Quel giorno, quando il poliziotto portò qui quel rapinatore che non aveva rapinato me, capii dal tuo sguardo che avevi fatto qualcosa di male. Poi, quando ero là fuori e ti vidi rubarmi un dollaro e mettertelo in tasca, pensai che t'avevo già visto prima da qualche parte, ma non sapevo dove. Quel giorno, quando mi salvasti dal gas, poco mancò che ti riconoscessi. Poi, a letto, mentre non avevo niente a cui pensare tranne i miei guai e come avevo buttato via la mia vita in questa bottega, mi ricordai quando venisti qui per la prima volta e mentre sedevamo insieme a questo tavolo, tu mi dicesti che nella vita avevi sempre sbagliato tutto e nello stesso istante in cui me ne ricordai, dissi a me stesso: è Frank che mi ha rapinato. Morris, disse Frank con la voce roca, mi dispiace. Morris era troppo triste per parlare. Il commesso gli faceva compassione, ma non voleva tenersi intorno un criminale confesso. Anche se si era emendato, che vantaggio poteva trarne a tenerlo lì? Un'altra bocca da nutrire, un altro paio d'occhi a vegliare un moribondo. Ha detto a Helen quello che ho fatto? Sospirò Frank. Helen non si interessa a te. Mi dia ancora una possibilità, Morris, implorò. Chi era quell'antisemita che mi ha colpito in testa? Ward Minogue, disse Frank dopo un attimo. È malato adesso. Ah, sospirò Morris. Povero padre. La nostra intenzione era di rapinare Carp, non lei. Per piacere, mi lasci ancora un mese. Pagherò il vitto e anche l'alloggio. Con che cosa pagherai se non ti pago? Coi miei debiti? Lavoro un po' di notte dopo la chiusura. Metto insieme qualche dollaro. No, disse il negoziante. Morris, lei ha bisogno del mio aiuto qui. Non sa come vanno male le cose. Ma ormai Morris aveva deciso. Non l'avrebbe lasciato rimanere. Frank appese il grembiule e uscì dal negozio. Più tardi comprò una valigia e mise via le sue poche cose. Andò a restituire la radio a Nick e a salutare Tessie. E adesso dove andrà Frank? Non so. Non ritornerà più? Non so. Mi saluti Nick. Prima di andarsene Frank scrisse un biglietto a Helen dicendole ancora una volta che gli dispiaceva di averle fatto del male. Le disse che era la ragazza migliore che avesse mai incontrato. Lui si era rovinato la vita. Helen pianse sul biglietto, ma non le venne neanche in mente di rispondere. La 16ª puntata del Commesso di Bernard Malamud nella traduzione di Giancarlo Buzzi, letta da Paolo Graziosi per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Luigi Iavarone, da riascoltare su raiplayradio.it. Ultimo ascolto da Ingresso Libero, l'album musicale di questo pomeriggio, album d'esordio come Rino Gaetano, di Rino Gaetano medesimo, dopo lo pseudonimo di Cammamuris usato precedentemente, e ultimo brano, Ad esempio a me piace il sud. Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi, macchie più scure senza rugiada, coi fichi d'India e le spine dei cardi. Ad esempio a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia tutte le sere, che aspetta il marito che torna dai campi, ma come fare non so. Si devo dirlo, ma chi? Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro colore. esempio a me piace.